vive con il padre, da soli perché la madre li ha abbandonati, e ha questa comitiva di amici, tutti quanti su per giù della stessa età, qualcuno lievemente, leggermente più grande, e quindi giovanissimi, ritrae Marocco, un adolescente negli anni 90. E sì, Napoleon Amour parla di il protagonista è un trentenne Ecco, ma nel. c'è un legame, in qualche modo possiamo considerare virtualmente come se questo fosse, chiaramente il personaggio è diverso, ma anche se alcune affinità ci sono. Ho Sì. pensato per esempio quando Marocco dice che ogni tanto gli piace restare a letto perché tanto la scuola non serve a niente. Amore Sano aveva questa forma di indolenza, insomma anche lui rimaneva a volte a letto, però per un quattordicenne diciamo che è più normale rispetto ad un trentenne, insomma c'è un legame fra i due personaggi o no? Forse il legame è che sono entrambi due personaggi, due persone sensibili. Non si limitano soltanto a vivere quello che fanno, ma anche a pensarci su. E forse il legame tra i due libri è che Napoleon Amour sono, sì, Amore Sano a 30 anni ai giorni d'oggi, e quindi mi interessava stabilire, cioè indagare com'è che si fa a diventare trentenni oggi, E quindi si è passati l'adolescenza negli anni 90, sì, essendo stati sostanzialmente. gli adolescenti che siamo stati. Abbiamo detto che Marocco vive con il padre perché la madre ha abbandonato la famiglia da un po', e questo naturalmente ha, come dire, una certa importanza nella vita di Marocco. A un certo punto tu scrivi: mia mamma, per alcuni, era una poco di buono, lo sapevo. E loro lo pensavano e io facevo finta di non pensarlo, fingevo di non sentire, di non accorgermene o di non capire. Ma mia mamma, per me, era uno schiaffo in faccia, una ferita aperta. Ecco in che modo l'abbandono della madre si riflette sulla vita di Marocco. Forse proprio a tutti gli effetti una cicatrice. Questa madre che se ne va e destina tutte le successive relazioni o relazioni interpersonali a una sorta di allontanamento, perché Marocco, essendo stato ferito, cerca di non mettersi più davvero in gioco, o magari utilizzare le relazioni che si trova davanti solamente in un determinato modo, anziché abbandonarsi completamente. E quindi la madre, per certi versi, questa assenza lo avvolge completamente, perché lui, anziché proprio vivere, cerca di ripararsi, proprio di Di difendersi, sì, difendersi quasi proprio. a prescindere, cioè nel senso che proprio lui non pensa che le cose possano andare bene, ma sono semplicemente male, e quindi quando incontra qualcuno cerca di proteggersi da chiunque È esso sia. sulla difensiva, Sì, naturalmente. sì. Ecco, Marocco è un personaggio che vediamo muoversi all'interno di un contesto di suoi coetanei. C'è qualche ragazzino più grande, tipo Lunno, che è uno dei suoi amici, diciamo, è una persona da cui lui rimane molto affascinato. È un po' un leader, Lunno, e lui lo segue in varie avventure e disavventure. Però questo è un contesto in cui gli adulti non compaiono più di tanto. La madre, abbiamo detto, non c'è perché se n'è andata. Il padre è presente per quello che può, perché è un uomo che lavora, sta via tutta la giornata, ed è un contesto in cui questi ragazzini sembrano un po' crescere da soli, è così? Sì, sia il padre che il mister Il della mister della squadra sono squadra. proprio due genitori, tipo, sono presenti ma sono anche assenti, loro malgrado, perché comunque la giornata è composta da tante cose, un genitore necessariamente deve uscire di casa per andare a lavorare e tornare a un determinato orario, e quindi questi ragazzi vivono un po' da soli, cioè ci sono proprio fasce orarie in cui il mondo è loro, Fanno e quello che vogliono e sì. nessuno sa È che un cosa po' il paese dei combinano. balocchi di Pinocchio e Lucignolo, che vanno lì facendo quello che vogliono e poi succedono le brutte gatte da pelare. E quindi sì, Marocco e i suoi amici sono dei ragazzini che imparano più o meno a vivere da soli, perché magari queste figure, il mister e il padre, danno dei consigli, però come tutti gli adolescenti sono molto riottosi, ecco, perché poi mi andava di scrivere dell'adolescenza perché siamo diventati adulti uno diverso dall'altro, però siamo stati adolescenti più o meno allo stesso modo, cioè tutti quanti, insomma, i genitori ti dicevano questo non si fa, e E tu tu in facevi il automatico, contrario, sì, in ovviamente, automatico sia che facevi fosse negli anni 90, sia che fosse negli anni sì. 2000 o negli anni 50, Quindi insomma. mi interessava perché posso dire una storia, cioè sono storie che hanno una sorta di universalità, perché tutti quanti siamo stati un po' così. E quindi sì, loro vivono da soli in una periferia, quindi con Ecco, che l'aggravio. periferia e Soccavo, questo quartiere di Napoli, perché non è una delle periferie spesso narrate di questa città. Sì. Vabbè, il nome del quartiere, diciamo, nel libro non viene mai nominato, viene ampiamente descritto proprio architettonicamente, i palazzoni, le strade e così via, però non viene mai nominato perché in realtà mi interessava proprio questa cosa di descrivere una sorta di periferia onnicomprensiva di tutte le altre periferie, perché io sì, a Soccavo ci sono nato, ci sono cresciuto e ci vivo tutt'oggi, e quindi è la mia periferia e so com'è, però mi è capitato nella vita di vivere anche in altre periferie e poi, cioè, non è che era così tanto diverso, sono tanto diverse. Sì, anche qui c'è una certa universalità nella periferia, così come dell'adolescenza, cioè diciamo, potrebbe essere la tentazione era quella lì. Poi nello specifico sì, Soccavo, diciamo, non fa molta notizia come periferia, perché è un po' la periferia della periferia, nel senso che, cioè, ci sono periferie più nobili napoletane, mettiamola così, Secondigliano per esempio, più narrate anche. Sì, più narrate, senz'altro, che fanno più notizia, e c'è anche la differenza che Soccavo è veramente quasi vicino al centro della città, cioè vicino allo stadio, fuori grotta, diverse cose, però è molto isolata dal resto della città a suo modo, e mi interessava proprio quella cosa che questi ragazzini messi in un posto così isolato da tutto il resto diventa necessariamente una sorta di Luna Park, come il paese dei balocchi. Ecco, questi ragazzini vivono anche un contesto fatto anche di violenza, diciamo, perché si trovano a fare a botte a volte con qualcun altro, a volte si tira anche fuori il coltello, insomma, sì. Succedono delle cose anche più pesanti. A un certo punto anche Marocco viene coinvolto quasi un po' per gioco in un traffico di hashish, iniziano a spacciare hashish a scuola, però non vogliono fare esattamente gli spacciatori, cioè è un po' una cosa come un'altra. Sì, è proprio esattamente quello che mi interessava fare, cioè cercare di ritrarre questo tipo di avvenimenti come un qualcosa di normale, perché poi d'altronde quando si racconta delle periferie, soprattutto delle periferie napoletane, c'è quasi questa ottica un po' glamour, che cioè diventano proprio dei personaggi monodimensionali in cui criminali tutto tondo, sì, no. In cui vedi solamente la facciata senza capire nulla di quello che possono essere state le loro motivazioni alla base, i processi che l'hanno portati a quella fine, non so come dire. E quindi mi interessava dare una sorta di struttura psicologica e sentimentale a questo tipo di personaggi, perché di solito non le hanno, e invece secondo me ne hanno, e come, e volevo far sì che la vicenda accadesse nella più assoluta normalità. E quindi sì, anche spacciare l'hashish, poi è chiaro che loro non è che tipo diventano narcos. No, infatti non diventano, appunto, non sono criminali come si potrebbe pensare nell'immaginario. Sì, ecco. Magari quella cosa dell'hashish nel libro credo sia stata messa giù più come una cosa che loro fanno per far passare anche un po' il tempo, così come lo è anche il calcio. Cioè, infatti per me non, cioè, il calcio è quasi irrilevante in questo libro qua, così come la vicenda dello spaccio è quasi irrilevante. Sono altre le cose che secondo me sono da sottolineare. Tipo? Tipo la passione che Marocco ha per i Dylan Dog e tutto il mondo del paranormale. È vero, perché lui, oltre a comprare i fumetti, segue molto anche tutte le notizie che arrivano dal mondo, diciamo, degli UFO, del paranormale. Sì. Per esempio, lui non esprime mai né un giudizio né un'osservazione riguardo il calcio o questa cosa dello spaccio, del fumo, perché, cioè, nel senso, lui gioca. La sua vita interiore è giocata su altri temi, effettivamente. Sì, cioè, lui gioca a calcio, però non ci dice mai qual è la sua squadra preferita, il suo calciatore preferito. Mentre riguardo questa cosa di Dylan Dog, lui, cioè, a un certo punto dice: mi voglio comprare pure una camicia così. Oppure riguardo il paranormale, fantasmi, gli alieni, gli esorcismi, lui proprio ci pensa. E secondo me questa cosa qui, questo tipo di passione, ci pensa, però non ad alta voce, perché magari è un qualcosa che poi potrebbe venirne deriso, quindi ci pensa con se stesso ed è anche un po' una sorta di mezzo per scappare da quella che è la sua realtà contingente. E quindi secondo me quella è una cosa molto più importante, perché lui vive in questo quartiere, circondato da questo quartiere, da cui non immagina nemmeno una via di fuga, perché è proprio tutto l'orizzonte, però al contempo guarda la luna perché ha letto del probabile finto allunaggio. E lui, appunto, i suoi pensieri sono concentrati su queste cose, e poi, avendo 14 anni, sono concentrati anche un po' sull'amore, nel momento in cui, per esempio, o sulle ragazze in genere, sul sesso, sull'amore, e c'è il momento in cui incontra questa ragazza Serena, che ha un ruolo importante non solo nella sua vita affettiva, ma proprio nel suo modo di concepire il mondo. Sì, sì, proprio Serena è come se lo rimettesse al mondo, o proprio magari proprio lo rimette al mondo, o lo mette al mondo per la prima volta. Cioè, perché Marocco incontra Serena, e Marocco è sempre un po' titubante come suo solito, un po' guardingo, e invece Serena è proprio un fiume in pieno, pieno di entusiasmo, piena di proprio di affetto, proprio candido affetto, e lui inizialmente ne è proprio, come posso dire, stranito, cioè non capisce, dice: bah, ma questa che vuole? Che cos'è questa cosa qui? E invece qui? Poi fra una canzone di Battiato e l'altra, sì, visto che Serena lei è una riesce fan. A proprio, infatti quando si danno il primo bacio Marocco dice: mi scassino tutti i denti, perché riesce proprio a scassinarlo, no? Come una sorta di cassaforte, e Serena proprio lo apre al mondo, gli ridipinge l'identità. Grazie ad Alessio Forgione, ora in libreria con Giovanissimi, pubblicato da NN Editore. Grazie Alessio. Grazie a voi. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Costanza Rizzacasa d'Orsogna su Non superare le dosi consigliate, Alessio Forgione su Giovanissimi. Musiche, Vite parallele di Franco Battiato. In regia Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it, e naturalmente potete seguirci sui social. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il, ma anche su Facebook come Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.